Hola a todos y bienvenidos a Italiano para Españoles. Hoy hablaré de la historia de la lengua italiana. L'italiano attuale deriva dal latino, o meglio, è il frutto della costante evoluzione del latino parlato attraverso i secoli, cioè dei lunghi e incessanti mutamenti cui il latino è andato incontro sulla bocca dei parlanti, in concomitanza con il mutare della vita economica, sociale e politica, e per effetto di una vasta serie di fenomeni linguistici e non solo linguistici. Originariamente, intorno al IX-VIII secolo avanti Cristo, il latino, una delle tante lingue indoeuropee, era solo la lingua usata in Italia, dai latini appunto, che era un piccolo popolo di contadini e di guerrieri che viveva nel Lazio, là dove sarebbe sorta Roma. Tra il V e il III secolo avanti Cristo, questo popolo sottomise militarmente e politicamente tutte le popolazioni al di qua delle Alpi, e poi, nei secoli successivi, buona parte dell'Europa, dell'Africa settentrionale e dell'Asia mediterranea. Parallelamente, sul piano linguistico, esso impose nei territori conquistati, e quindi a milioni di persone, la propria lingua, il latino appunto, che come ovvio si sovrappose a quelle già esistenti, e nei territori europei dove la dominazione romana durò più a lungo, le sostituì non senza assorbirne, a livello di lingua parlata, molteplici elementi che la diversificarono regione per regione. Esto es todo para hoy. ¿Qué dice hoy? Hoy he introducido la historia de la lengua italiana. La lengua italiana deriva del latino. Y el latino, de lengua de un pequeño pueblo, se convirtió en lengua de la antigua Europa. Si no habéis comprendido todo lo que he dicho, es normal. Además, he leído rápidamente y el sonido no está grabado muy bien. Por eso, si pensáis que es necesario, podéis descargar el texto de lo que he dicho desde el sitio internet. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.